Bene, tornati in diretta per quanto riguarda 451 frammenti sonori, seconda parte dedicata a una sorta così di viaggio evocativo dentro le, così le abbiamo chiamate, divagazioni cantautoriali. Divagazioni cantautoriali che ci hanno portato, insomma, spero lontano con Baby D, Momus, Tiny Tim in compagnia di Nasu Itund, Current 93, Any Anxiety, così mi hanno corretto perlomeno, e David Thomas in Super Boys, ascoltato per un paio di minuti, ma recuperiamo immediatamente l'intera faccenda di Everon, di David Thomas in Super Boys, si fa per dire interamente. Andiamo a sentire un pezzo decisamente bello, tratto da questo piccolo grande gioiello uscito dall'ex, o forse ancora per Eubo, visto che stampa più come per Eubo che come Chupel Boys, seppur a detta proprio del sottoscritto in lavori con Chupel Boys vivono sicuramente di nuovi ardori, con per Eubo come dire, viene continuata quella saga catastrofista perubistica, appunto il nome la dice lunga sul papà della patafisica, Fred Jarry, che appunto è titolato e titolare del padre Ubu, come non rifarsi a quel folle geniale che aprì quasi interamente la faccenda delle avanguardie nei primi del Novecento, forse insieme a un altro grande come Isidore Ducasse, anche egli piuttosto conosciuto da patafisici e surrealisti vari, Dada conseguenti. Con David Thomas e Chupel Boys si va dentro quel mondo forse patafisicizzante, un po' incartato nella parola, ma perdonatemi, ma forse si va anche verso quei lidi di espressionismo musicale portato a un deragliamento, come tante volte ha fatto David Thomas con Pere Ubu. Qua c'è anche una mescolanza tra forme di cantautorato che ricordano una sorta di circo folle e anche di un folk assolutamente reinventato, con questa fisarmonica appunto suonata da Thomas in maniera quasi post-atomica, per flatto e per sensazione così musicale che accompagna anche questa vocalità volutamente, insistentemente devastata, quindi il massimo probabilmente della divagazione cantautoriale, uno dei picchi sicuramente delle musiche allucinatorie del Novecento, quelle di David Thomas, in questo caso con Chupel Boys in Everon, ma in tanti altri casi da più di 30 anni. Ci andiamo a prendere appunto da questo gioiello degli anni 90, Everon, da parte di David Thomas appunto e Chupel Boys. Thank you. haunted man. Here comes the rain. Look into his eyes. Feel the pain. Haunted man. Here comes the rain. Look into his eyes. Feel the pain. Grande David Thomas con i suoi Chappell Boys in Ever One, dove addirittura se la prende con Bob Dylan, Highway 61 Revisited, una rivisitazione appunto dello storico pezzo di Bob Dylan, interpretato in chiave assurdista come siamo abituati, insomma, da David Thomas, con tanto di sorta di macchinario che si incastra e, come dicevo prima, questa sorta di strumento così legato al folk anche più popolare come la fisarmonica, che diventa anch'esso una sorta di meccanismo dell'assurdo per una cover che non è una cover, è una rivisitazione ma una reinvenzione di un pezzo, quindi una sorta di rimando impossibile verso un Dylan altrettanto improbabile, che appunto con Chappell Boys diventa una sorta di allunaggio cantautoriale. E andando a prendere tra i personaggi più ispirati di questi ultimi anni per quanto riguarda evocazioni, per quanto riguarda anche divagazioni dai generi, e una autorialità che si esprime sia in ambito ambientale o post-industriale ambient isolazionista, e un accenno cantatoriale, un accento anche posto su una vocalità appena inserita in questo splendido lavoro di Andrea Penso, in questo caso come Selaxon Lutberg. Metteremo anche probabilmente nelle prossime puntate anche sull'ultimo lavoro, dove arriva una vera e propria forma cantautoriale, quindi di cantato espresso finalmente dopo anni che appunto le vocalità venivano soltanto evocate, nell'ultimo caso appunto sono espresse. Ci andiamo però a prendere da uno dei dischi sicuramente più importanti e più belli della sua breve ma intensissima carriera autoriale, che oramai insomma annovera anche più di un disco, anche magari così, promettendovi che magari tra non molto sarà anche ospite di 451 frammenti sonori, e quindi avremo anche modo di parlare con questo giovane autore di musiche sperimentali, ma di anche una grande poeticità dentro e anche di una certa forza sentimentale, se mi fate passare insomma il termine, dentro musiche che vivono sia di così scenari distopici, ma anche momenti di grande intensità. Selaxon Lutberg, intensità ovviamente declinata su una sorta di intimismo che magari ci rimanda anche un altro grande autore, ma vabbè, lascio a voi l'evocazione. e dalle evocazioni di Selaxon Lutberg, ovvero Andrea Penso, che insomma evocavano i piani disintegrati o i loop disintegrati, così vi do un'indicazione anche maggiore, di Basinski, del grande appunto autore americano, seppur con uno stile decisamente personale e comunque l'imitatio è una delle forme più importanti per quanto riguarda anche autori che poi appunto si basano su idee proprie, e prendendo spunto appunto da altri, come dire, molte cose sembrano cambiare, in realtà cambiano, e come lo stesso Andrea Penso appunto con Selaxon Lutberg dava appunto questa nuova possibilità a questa nuova disintegrazione dei piani, da un disco decisamente bello di qualche tempo fa, Cold House of Love, appunto con la promessa che vi facevo prima di prima o poi mettervi anche l'ultimo lavoro e magari di averlo in studio qua. Abbiamo ancora in sottofondo uno dei padri del minimalismo massimalismo, Tony Corrad, insieme a una delle vocalità più estreme, più evocative di sempre, ovvero Keiji Aino, giapponese indefesso, si potrebbe dire, da decenni, che fa con la voce veramente cose incredibili, un'espressività che raggiunge a volte proprio lo spasmo vocale, altre volte diventa una sorta di urlo cosmico, altre volte diventa voce rumorista, ricordando veramente tantissime collaborazioni, personaggio assai aperto che Giaino, ricordando così le prime che mi vengono in mente, da Pansonic a Merzbo, proprio un approccio musicale assolutamente aperto a un'idea molto intensa, sperimentale delle vocalità, padre di molti sperimentatori appunto che fanno della voce il loro strumento principe, e che appunto dalle loro vocazioni e divagazioni a questo punto canta, ma veramente forse incantatoriale sarebbe meglio dire, si va veramente verso nuovi mondi immaginati in maniera superlativa, come d'altronde un'altra grande sacerdotessa della voce, della vocalità estrema, e questo personaggio che mi piace lasciare un po' in segreto. Prima evocavamo Basinski con Andrea Penso e Selaxon Lutberg, evochiamo probabilmente uno dei personaggi anche più mainstream del Novecento. Beh, se devo emettere uno dei miei gusti personali, sicuramente la mia cantante preferita di sempre è la Yoko Ono, eccezionale veramente nel testare i limiti della vocalità, portata veramente a un eccesso espressionista incredibile. Fly, disco meraviglioso degli anni 70, ma buona parte della discografia appunto di quel periodo della Ono è veramente sublime, eccelsa e quant'altro, insomma, di certo forse ne posso parlare veramente poco, perché veramente adoro quei dischi della Ono, scoperti poi tra l'altro anche in maniera accidentale o incidentale, perché insomma ascoltando Beatles, Lennon eccetera eccetera, poi si arriva alla Ono e mi sono, insomma, sono incappato personalmente qualche anno fa in queste meraviglie, insomma, piuttosto sorpreso e sorprendente poi come questa artista, poi conosciuta in realtà insomma per altre faccende, soprattutto ombra di Lennon, in realtà abbia veramente portato all'estremo lo strumento musicale e vocale, ricreando veramente da una sorta di urlo primordiale un mondo sperimentale che insieme a altri grandi personaggi come John La Barbara veramente infondevano nuovo coraggio a chi stava sperimentando con una vocalità che poi arriverà anche negli anni 80 a essere grandemente riconosciuta, con ad esempio Sheila Hirsch, con Diamanda Galas, per certi versi Laura Anderson, anche se poi con lei non si va tanto sulla sperimentazione strettamente vocale nel vero senso della parola, visto che poi si tratta più che altro di una manipolazione vocale. Invece le altre citate, insomma, soprattutto insomma la Yoko appena ascoltata, invece si trattava proprio di un forma insomma di esperimento proprio in vivo sulla voce. Poi chiaramente questo portava anche a parallelismi con le sperimentazioni elettroniche, sia la Barbara con Cage, sia la Ono per quanto riguarda il mondo pararock, ma anche quindi quello di Lennon, di Clapton in fuga insomma dalle cose più ovvie di un certo blues bianco che stava andando a incappare in quegli anni lì. Sto parlando della Plastic Ono Band, ma anche una Ono che collabora con la band di Ornette Coleman di Free Jazz, una Ono che va a impattare direttamente dentro il Fluxus e quindi tutto il discorso dell'happening, in questo caso vocale anche, del movimento che ha visto la Monte Young, Beius, lo stesso Cage dentro un nuovo modo di affrontare le musicalità, l'arte, ma addirittura proprio l'invasione dentro la vita dell'arte. Molti dischi della Yoko si sentono momenti anche di quotidianità che invadono la musica, il suono, dando appunto non soltanto una documentazione realistica, non soltanto quella, ma proprio anche proprio una violenza anche espressiva tale appunto da far entrare, come dicevo prima, la vita nell'arte in maniera indissolubile. In questo senso insomma il Fluxus, in questo caso con la Yoko Ono, veramente hanno insegnato anche a trascinare quello che è la vocalità da un mondo estetico legato al bel canto verso invece mondi espressivi decisamente anche violenti anche per molti aspetti. E parlando appunto di grandi sacerdotesse della vocalità, concludiamo questo 451 frammenti sonori con un'altra divagazione meravigliosa, un personaggio misconosciuto per molti anni, poi dalla stessa Yoko Ono, ma anche da altre grandi autrici, riprese a piene mani, ma anche ristampate negli ultimi anni dalla storica Esp Disc, che è tornata finalmente a cogliere le gemme pubblicate negli anni 60 e primi anni 70. Esp Disc che trattava dal free jazz al rock più freeform, ad esempio dei primi Fugs, tanto per citare alcune cose meravigliose. E nel jazz ad esempio si potrebbe citare immediatamente Albert Tyler, Patty Waters, voce incredibile, anche la testa, i limiti della vocalità, e raggiunge vette di grande espressività. Suo capolavoro, 35 minuti di escursione dentro mondi assolutamente colorati di voce vitalistica e di grande intensità, Sings, appunto tratto dalla storica etichetta Esp Disc, disco che appunto diventa una sorta anche di manifesto per tutte le nuove generazioni che riprendono il vocalismo estremo e magari lo portano verso anche lidi ancora inesplorati. Penso a autori americani di nuova generazione, magari legati al nuovo noise, che per molti aspetti prendono proprio dalla Esp Disc, ma anche da tanto materiale, quel poco ma veramente tanto in termini di evocazione, di riflesso indotto che Patty Waters ha lasciato. Ci andiamo pure ad ascoltare da The Sing, grande Patty Waters. Black Black. Black. Black. Black. Black. Black. Patty Waters da Sing, disco veramente estremo, ma anche nella sua bellezza, dove appunto la grande cantante americana esprime al meglio le proprie potenzialità vocali e porta veramente a un nuovo livello anche gli esperimenti in quel campo, partendo dalle musicalità nere. Si potrebbe insomma parlare di una Billie Holiday portata dentro l'idie assolutamente free form, e quindi anche volontariamente insomma traghettata verso musiche sperimentali, che però non perdono assolutamente di animosità. Se di esperimento si tratta, sicuramente di esperimento freddo, scientifico. Poi tante volte, anche quando trattiamo quello qua a 451, ci accorgiamo che non è mai totalmente freddo e totalmente laboratoriale la faccenda, anche perché sennò insomma perderebbe di quel senso musicale che è fondamentale. Ma proprio con Patty Waters diventa proprio una sorta di unicum dentro la sua produzione musicale, e proprio questa grande animosità, questo quasi blues che esce, anzi senza il quasi, un blues che esce però dentro questo esperimento vocale incessante, sempre a voler ricercare appunto gli estremi di un'espressività che non è mai doma, come appunto è stata quella della grande cantante Patty Waters. Io vi saluto qua a questo punto, ringrazio gli astanti in studio e ringrazio gli astanti fuori studio, quelli che hanno ascoltato appunto 451 tramite radio o tramite computer in diretta. Ringrazio in maniera anticipata chi ci ascolterà invece attraverso 451 frammenti sonori.noblogs.org. Vi rimando alla prossima trasmissione appunto dalle onde di Città del Capo o del blog, e vi auguro insomma una settimana di quelle indimenticabili. Scherzo. Alla prossima da Max Macchia.